4 mattino. Spezia, ma cosa ci lamentiamo del sistema americano, che perlomeno lì chi viene eletto governa? Vogliamo parlare del sistema italiano, che chi non viene eletto governa? Dai. Io ieri sono stato uno dei 4, 5, 600 mila che si è messo in coda, l'ho fatto alla mattina, poi mi sono arreso e poi l'ho rifatto dopo cena. Sono partito da 600 mila utenti in coda intorno alle 8 e mezza e alle 10 e mezza avevo finito la mia procedura. A parte la coda che è stata lunga e l'ho fatta mentre guardavo la televisione, una volta che è stato il mio turno, in 5 minuti ho completato tutto l'iter. Pur essendo la più grande democrazia del mondo, però che ci vada a votare solo il 60% dell'avente diritto ti dà da pensare, cioè c'è un 40% di statunitensi che non va mediamente a votare. Sì, sì, questo è lo storico tema appunto dell'affluenza negli Stati Uniti. Credo che quest'anno sia stata decisamente più alta. E, però fatemi cogliere un attimo la polemica del primo ascoltatore. Cioè, almeno loro sanno che chi votano governa, qua non lo sappiamo. È una cosa che ripetiamo fin dall'inizio, perché sotto traccia c'è sempre la solita polemica a dire chi governa non è eletto. Questo paese è una repubblica parlamentare, fatevene una ragione, o cambiamo il sistema costituzionale oppure è così, punto. Si votano i parlamentari non hanno un vincolo di mandato e quindi il governo poi si fa in Parlamento, non si fa decidendo direttamente chi governa. Il bonus bici, ci arriviamo subito a questo maledetto bonus bici. Questa è la seconda parte del 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, al microfono sempre Simone Spezia. Sono le 7:22 minuti, è mercoledì 4 novembre e poi alla fine, verso la fine della trasmissione, o meglio di questa parte della trasmissione, avremo anche Giulia Crivelli per fare un punto su quello che scrivono i giornali americani, su quello che troviamo un po' in giro dal lato di quella rassegna stampa, una sorta di anticipazione, se volete, di Effetto Mondo, il punto di giornata che fa sempre in Effetto Giorno con Alessio Maurizi. Le aperture sono in gran parte dedicate a Covid, al decreto che poi è stato approvato questa notte, il DPCM, coprifuoco dalle 22 alle 5, il nord-ovest è zona rossa, è il titolo della stampa. La sottile linea rossa è il titolo del manifesto. A letto alle 22 e senza cena, è il titolo della Verità. Un virus tra Italia, il giornale. La Repubblica sceglie invece l'apertura americana. Referendum sull'America con le foto dei due candidati. La lista delle regioni rosse di rabbia, titola il quotidiano nazionale. Chiusura e coprifuoco alle 22, il Messaggero. Il Corriere della Sera sull'America, battaglia negli stati in bilico. Abolita la libertà è il titolo di Libero. Regioni sediziose, dice il Fatto Quotidiano, potere di veto. Il lockdown si fa a strati è il titolo di Avvenire. Il Sole 24 Ore, Covid, chiusure e 1,5 miliardi di aiuti, è il titolo appunto del Sole 24 Ore. E facciamo così, che iniziamo proprio dal Sole 24 Ore, iniziamo proprio dal bonus bici, perché è difficile non condividere in questa vicenda che, vi ripeto, a mio giudizio ha un po' dell'assurdo, per quanto, come l'ascoltatore ci raccontava, si è messo in fila alle 8:30 e poi alle 10:30 è riuscito. Un altro ascoltatore mi dice: abbiamo passato ieri tutta la giornata, poi stamattina mia moglie ci si è messa alle 6 del mattino e si è messa, aveva 26 persone davanti in coda, alla fine gliel'abbiamo fatta. La ridicolaggine di un sito internet nel quale ci si mette in coda. È difficile non condividere il commento di Pierangelo Soldavini sul Sole 24 Ore, siamo a pagina 15. La lotteria della burocrazia finisce nella coda digitale. A fine novembre, scrive Soldavini, Amazon celebra il Black Friday, la giornata di sconti in vista del Natale. Un paio di settimane prima Alibaba ha il suo Singles Day, iniziativa analoga riservata al mercato cinese. In un giorno il colosso americano ha venduto l'anno scorso prodotti per 6 miliardi di dollari nel mondo. In Italia ha gestito 37 ordini al secondo. Il rivale cinese è andato ben oltre, con 38,4 miliardi. Tutti ordini elaborati e consegnati nel giro di pochi giorni. D'altra parte, i colossi di internet sanno che la loro forza è la semplicità e la rapidità. Poi si può discutere sulle modalità. Ma non è senz'altro questa la cultura della pubblica amministrazione italiana, che ieri ha costretto centinaia di migliaia di persone a perdere ore davanti allo schermo, tra procedure complesse e burocratiche per accedere a un massimo di 500 euro, il miraggio del bonus per la mobilità sostenibile, cui ambiva a pieno titolo forse 1 milione di persone. Il percorso è stato costellato di ostacoli, tra una piattaforma che funzionava a singhiozzo, informazioni carenti, richieste ridondanti, una lunghissima lista d'attesa, alla fine il sito di PostaID è andato in tilt. Il Click Day si è rivelato così un atto di fede più che un esempio di semplificazione digitale, con il risultato di trasformare un'opportunità in grande rabbia serpeggiata sul web, con la sensazione di continuare a essere trattati nello stesso modo da sudditi che si devono mettere in coda davanti allo sportello della pubblica amministrazione anche se hanno un diritto. Figuriamoci poi se il diritto è qualcosa di ben più rilevante, il diritto alla salute dei cittadini in tempi di Covid-19. Ieri era Click Day anche per le vaccinazioni anti-influenzali per i bambini lombardi fino a 6 anni, compresi quelli a rischio. Il sito si è bloccato per ore e anche quando è ripartito non c'erano più disponibilità, almeno per il momento. Questa non è digitalizzazione. Se insistiamo a considerare il computer come un dispensatore di numerini in un'enorme sala d'attesa virtuale, meglio tenersi quella fisica. Si perde lo stesso tempo, ma non c'è il rischio di ingolfamenti informatici. La soluzione vera è digitalizzare la mentalità, soprattutto per la pubblica amministrazione e di conseguenza i processi. Non possiamo credere che la Regione Lombardia non abbia a disposizione i dati di tutti i bambini o dei pazienti affetti da patologie che richiedano il vaccino. Basterebbe estrarli e contattarli, come peraltro ha fatto la Regione Veneto. Così il Ministero avrebbe potuto ordinare i rimborsi per le bici sulla base della data d'acquisto, senza nessuna corsa al click. E questo è uno dei punti. Ottimo Pierangelo Soldavini, è sul Sole 24 Ore, pagina 15. Altre cose di diverso tipo, e poi magari un accenno ovviamente a Covid e al terrorismo, come ovvio lo faremo, perché trovate molte pagine dei giornali su questo. Collegata a Covid c'è questa vicenda che rischia di aprire un vaso di Pandora di ricorsi, ce la racconta Libero a pagina 14, anche se la vicenda era stata raccontata al Mattino di Padova nella giornata di ieri. Una studentessa bocciata all'esame di maturità per stress post Covid potrà ripetere l'esame. Sono stati i giudici del Consiglio di Stato a darle ragione il 30 ottobre scorso, con una sentenza che darà l'abbrivio ad una serie di ricorsi analoghi. Il caso che raccontiamo è quello di Margherita, nome di fantasia, studentessa di un istituto superiore di Padova. Nel luglio scorso aveva deciso di rendere pubblica la sua storia, scrivendo ai giornali, e aveva detto: come tutti gli studenti italiani ho trascorso il periodo di lockdown dovuto al coronavirus perennemente chiusa in casa. Questa condizione di reclusione forzata mi ha provocato una condizione di malessere con notevole stress psicofisico, in cui le ansie fisiologiche sono via via cresciute in modo ossessivo. Dunque aveva presentato ricorso al TAR, e il TAR aveva respinto, poi è arrivato il Consiglio di Stato che ha ribaltato il provvedimento del TAR e ha disposto la ripetizione della prova orale dell'esame di Stato. Ora, questo aprirà, come si dice, un vaso di Pandora di ricorsi, non solamente all'interno delle scuole. Il caso di Margherita, spiega Cristiano Pellegrini Quarantotti, avvocato amministrativista specializzato nelle impugnative di concorsi pubblici, assume una rilevanza importante nell'ambito del complesso periodo che siamo costretti a vivere. La sostanza è questa, che può costituire un precedente importante sia per le bocciature scolastiche, sia persino per alcune prove di concorso, come a titolo di esempio la prova di accesso ai corsi di laurea in medicina. Quindi occhio, che si potrebbero aprire dei nuovi fronti. C'è una vicenda che ci viene raccontata dal Fatto Quotidiano, a pagina 14, con Silvia Donghia, il pezzo, scusate, sul Libro era di Chiara Pellegrini, che guardate, ha dell'incredibile. Don Andrea Leonesi non è uno che si imbarazza facilmente. Se lo ricorda bene l'ex sindaco di Belforte del Chienti, Roberto Paoloni, che qualche anno fa abbandonò la cerimonia di commemorazione dei caduti perché il parroco, per mano nazifascista, perché il parroco nutriva dei dubbi sul definirli martiri. Stavolta, se possibile, è andata peggio. Il vicario di Macerata ha pensato male, durante l'omelia del 27 ottobre, di omaggiare la Polonia per le scelte antiabortiste anche rispetto ai feti malformati. E si è spinto oltre. Mi verrebbe da dire una cosa, ma poi scandalizzo mezzo mondo. È più grave un aborto o un atto di pedofilia? Scusate, il problema di fondo è che siamo così impastati in una determinata mentalità. Con questo non voglio dire che l'atto di pedofilia non sia niente, è una cosa gravissima. Ma cosa è più grave? In sostanza, a dire, l'aborto è peggio della pedofilia. E ci racconta Silvia Donghia che il vescovo sostanzialmente lo ha difeso. Una storia che è interessante e rischia di crescere. Don Andrea Leonesi. A proposito di questioni che hanno a che fare con la Chiesa e con questioni controverse di tutt'altro genere, naturalmente, sta facendo discutere l'emendamento entrato nel disegno di legge anti-omofobia che prevede che la scuola italiana possa tenere lezioni contro l'omofobia in tutte le classi di ogni ordine e grado, a partire dalle scuole elementari. La discussione in Parlamento si è accesa sul punto dell'insegnamento di iniziative a scuola contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, come recita il testo, nelle scuole di ogni ordine e grado, soprattutto nel giorno, quello nel quale si prevede l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia. C'è la protesta delle opposizioni che dicono quei bimbi sono troppo piccoli, la questione è ben raccontata da Ettore Maria Colombo a pagina 20 del Quotidiano Nazionale. Pagina 20 del Quotidiano Nazionale dove, scusate perché c'è un'altra storia che la trovo meravigliosa, ci arriva dalla Thailandia. Cosa è successo in Thailandia? Che la Thailandia ha bandito Pornhub e altri 190 siti di pornografia. La rabbia è dilagata sui social media ed è addirittura approdata alla piazza. Decine di persone si sono radunate davanti al Ministero della Società Digitale, che è anche il Ministero dell'Economia, che ha dichiarato che il blocco fa parte degli sforzi dell'esecutivo per limitare l'accesso alla pornografia e ai sistemi web di gioco d'azzardo. E i manifestanti sono scesi in piazza con tanto di cappelletti di Pornhub con scritto «Lasciateci liberi di guardare quello che vogliamo». Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Mattino. I primi a chiudere le scuole a febbraio, di qualsiasi ordine e grado, a continuare a dirci adesso apriremo, cercheremo di finire l'anno scolastico, non le hanno mai aperte e siamo i primi a richiuderle adesso. Niente da dire, vostro onore, niente da dire. Perfettamente d'accordo con tutte le perplessità. Oh, vedo che invece vi sta scatenando il dibattito la questione della Thailandia, che in realtà ha degli elementi, giustamente mi fa notare qualche ascoltatore un po' più serio. Cioè, uno dice, guarda che la pornografia dice la pornografia dà dipendenza, può dare dipendenza, però non è che se può dare dipendenza, quindi neghi, no, anche il cibo può dare dipendenza, però non abolisci la cioccolata, non abolisci la Nutella, perché la Nutella può dare dipendenza, così come in questo caso non blocchi Pornhub per questo. E dall'altra parte qualcuno dice, occhio che però la Thailandia ha un grande problema di turismo sessuale. Sì, però ha un problema di turismo sessuale, cioè di persone che vengono da fuori appunto per il turismo sessuale, in questo caso Pornhub o tutti i siti che appunto pubblicano pornografia poco hanno a che fare. Più in generale ci ricorda sempre in questo pezzo il Quotidiano Nazionale che in realtà è più ampio il problema. Il governo thailandese ha affrontato negli ultimi mesi le proteste di giovani studenti che chiedevano la rimozione del primo ministro e riforme per ridurre i poteri del re. L'idea è che ci siano al potere ci sia al potere un governo molto conservatore contro il quale un gruppo di persone, appunto i giovani, protestano. È uno degli elementi. Allora, questione Covid. Questione Covid e questione regioni e non solo. Allora, lo schema più chiaro che ho trovato, se volete sapere esattamente cosa succede, li ho trovati sul Sole 24 Ore e sul Corriere della Sera, che sono quelli che ci identificano la zona rossa, la zona verde e la zona arancione. Sole 24 Ore ci dà anche un quadro di quelle che sono, di quello che è stato l'exploit delle borse nel giorno dell'Election Day americano, e ci dà anche uno spunto su quello che sta succedendo con le regioni, i governatori che chiedono subito gli aiuti e chiedono di essere consultati prima di chiudere. Lo schema del Corriere della Sera è appunto verde, arancione e rosso, proprio con i colori. Ristoranti, zone verdi, ristoranti solo a pranzo, mezzi pubblici al 50%, didattica a distanza per le scuole superiori, salvo le attività di laboratorio in presenza e centri commerciali chiusi nel fine settimana. Zone arancioni, vietato lasciare il comune se non per validi motivi. Si potrà entrare e uscire solo per comprovate esigenze e con il modulo di autocertificazione. Sono però consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza. Anche qua è necessaria l'autocertificazione. Nelle zone rosse divieto d'ingresso salvo appunto motivi gravi, ci vuole anche qua l'autocertificazione. La scuola andrà in didattica a distanza a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado e quindi delle medie, e rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori. Sospese le attività sportive anche nei centri all'aperto. Questo è il quadro. Come si identifica una zona rossa? Qua c'è un algoritmo sostanzialmente che si basa su 21 parametri, lo racconta Michele Bocci su Repubblica a pagina 13. I pilastri della decisione sono due, raggruppano 21 indicatori, dall'occupazione dei posti letto in terapia intensiva alla capacità di fare il tracciamento, dalla diffusione del virus alla rapidità nel fare i tamponi. Il primo e il più importante è la classificazione complessiva del rischio, che adesso nelle regioni italiane è alto oppure moderato. Elena Dusi intervista Alessandro Vespignani, che insegna alla Northeastern University di Boston, e dice questo: dice, i dati sull'epidemia arrivano in differita, hanno una definizione territoriale bassa, si fanno sfuggire gli asintomatici, ma sono il meglio che abbiamo. Con i loro limiti, l'indice RT, il rapporto fra positivi e tamponi, e il tasso di occupazione degli ospedali sono i parametri che tutto il mondo usa. E qua c'è un problema anche su questi 21 parametri, dei quali alcuni, ci racconta il Corriere della Sera, sono stati secretati. Qua c'è da registrare, come vi dicevo, quella che è un po' la rabbia delle regioni, che chiedono subito gli aiuti, che prima che il governo dia il via libera alle chiusure quasi in automatico chiedono di essere consultati. La firma è arrivata questa notte del decreto, e che il governo avesse deciso, pur consultando le regioni e pur sapendo che c'erano tensioni con le regioni, era chiara. La crescita esponenziale dei contagi, gli appelli dei medici preoccupati per la tenuta del sistema sanitario, il pressing del capo dello Stato per arrivare rapidamente a una soluzione condivisa non hanno lasciato molti margini comunque alle regioni, racconta Barbara Fiammeri sul Sole 24 Ore. Così, dopo un paio d'ore dalla lettura dell'ultima bozza, i presidenti hanno espresso un parere critico, ma si sono ben guardati dall'alzare barricate. Anche la richiesta pressante di chi voleva un provvedimento omogeneo su scala nazionale alla fine si è dovuto voluto riconoscere nella formula univoche misure nazionali e in via integrativa provvedimenti più restrittivi di livello regionale, che poi è quello che prevede appunto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si registra anche l'assessore Lombardo Gallera che dice che la stretta in Lombardia non serve. Da registrare il racconto di Nina Palmerini che ci dice che Mattarella è in campo per il dialogo tra i partiti. Andiamo al traffico e poi direi che sulle cronache di Covid ci siamo. Andiamo al traffico, poi brevemente vi porto sulla questione terrorismo con un paio di spunti che mi paiono interessanti anche dal punto di vista politico, e daremo anche un'occhiata con Giulia Crivelli ai giornali americani. A tra un attimo. Mattino. Attenzione, perché l'attacco terroristico che c'è stato a Vienna ha modificato un po' di cose anche sul fronte della gestione dell'immigrazione. Prendete il giornale, tanto per darvi un'idea. Ci racconta a pagina 22 con Chiara Giannini che il Viminale ha alzato l'allerta e c'è una stretta sui migranti e i confini, in una pagina nella quale lo stesso giornale con Francesco De Remigis che ci racconta che nelle ultime 48 ore ci sono stati 1600 sbarcati in Italia, mentre la Francia ha deciso, aperte virgolette, di commissariare l'Italia, ossia rimpatriare decine di tunisini, e chiede conto al nostro governo degli arrivi. Però il pezzo centrale di tutto questo è quello di Chiara Giannini, come vi dicevo, nel quale si racconta che il Viminale ha alzato l'allerta e c'è una stretta sui migranti ai confini. Dopo Nizza e Vienna, la Morgese ordina più controlli su stranieri e frontiere. Ci sono le sedi di rappresentanza che potrebbero essere nel mirino. È aumentata l'attenzione da parte dell'intelligence sugli obiettivi sensibili. A testimonianza di un cambio di passo, quantomeno di sentimento nel governo sul tema dell'immigrazione, c'è anche l'intervista che il Corriere della Sera realizza con il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Siamo a pagina 27. Guardate, il titolo è indicativo perché sembra di essere tornati a più di un anno fa, quando il Movimento 5 Stelle era ancora al governo con Matteo Salvini. Fermiamo gli sbarchi, è un problema di sicurezza nazionale. Questo il titolo appunto dell'intervista a Luigi Di Maio, nel quale si parla ovviamente di un maggiore coordinamento fra i paesi dell'Unione, dei nostri apparati di intelligence che funzionano, che hanno funzionato, tocchiamo ferro, meglio fino adesso, appunto, e per cui non siamo rientrati tra gli obiettivi, ma si dice anche questo. Siamo in linea con Giulia Crivelli. Ciao Giulia, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Eccoci. Così ci aiuti a dare un'occhiata a come la stanno vedendo i giornali americani, i media americani, almeno nei loro siti. Ovviamente anche loro tutti sospesi, perché ci sono tre stati, la Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, che ballano, e da questi dipende l'elezione del presidente, no? Sì, il New York Times, che essendo favorito leggermente dal fuso orario, è riuscito, diciamo, a stampare il titolo, che però è comunque la nazione col fiato sospeso. Il tema principale invece dei siti, ho guardato in particolare quello della Detroit Daily, che è un quotidiano di Detroit, capitale del Michigan, che sappiamo è lo stato più, così, forse il più importante in questo momento. Abbiamo sentito tra l'altro proprio due giorni fa Effetto Mondo la voce di Michael Moore, regista nato in Michigan, che diceva in quel momento i sondaggi sembravano molto favorire molto Biden. Diceva: elettori, dimezzate il vantaggio che Biden ha nella vostra testa. Il titolo del sito è che ci sono 3,26 milioni di voti di absentee ballots, cioè non l'early voting, ma quelli arrivati per posta, sì, da scrutinare. E un po' la stessa situazione in Wisconsin e in Pennsylvania. Quindi, siccome l'altro grande tema è che non ci sono state poi tutte queste code ai seggi ieri, quindi, come alcuni avevano ipotizzato, forse il voto per posta ha veramente sostituito, il voto per posta, l'early voting, ha in parte sostituito quello di persona. quindi è tutto molto incerto. Ci sono su tutti i siti, c'è molto timore serpeggiante, e lo dimostra l'ultimo tweet di Donald Trump, che è venuto subito dopo il brevissimo discorso di Joe Biden. Ci sono molti timori che a questo punto, come abbiamo già visto in elezioni passate, si passi ai tribunali, sì, perché Donald Trump insiste, e questo lo dicono anche tutti i siti della Pennsylvania, riproducendo anche questo tweet, sul quale tra l'altro Twitter ha messo il suo cartellino, attenzione perché queste informazioni non sono verificate, c'è molto timore che Trump insista perché si fermi subito il conteggio dei voti arrivati per posta. Sì. Quindi Lallo ricordiamo, c'erano state delle sentenze, delle decisioni della Corte Suprema nei giorni scorsi che avevano riguardato per esempio la stessa Pennsylvania, nella quale si era detto che uno degli stati in bilico, per la quale la Corte Suprema aveva deciso che i voti sarebbero potuti conteggiare fino a 3 giorni dopo la chiusura delle urne, se ovviamente spediti entro il giorno delle elezioni. Addirittura, se non vado errato, in North Carolina erano nove giorni di tempo, comunque molto tempo subito dopo. E quindi ci sono dei risultati in realtà che noi ancora sostanzialmente non abbiamo. Sono proprio questi 3 stati che sono i 3 stati in bilico. Il voto via mail, non so se questo i giornali lo notano, il voto via posta potrebbe in realtà favorire Biden. Questo lo troviamo, sì, sui quotidiani, sì, o no? Sì, l'ipotesi appunto è che chi ha votato per posta e chi ha scelto l'early voting sia tendenzialmente sia in maggioranza elettorato democratico. Chi invece ha votato in presenza, come Trump ha suggerito di fare sempre, anche ieri Melania Trump ha votato, e ha votato tra l'altro recandosi al seggio senza mascherina, e l'unica dichiarazione che ha fatto è questo il modo in cui si vota, cioè si va di persona al seggio, e quindi è per questo che Joe Biden ha fatto quell'intervento anche un po' inaspettato, chiedendo a tutti di avere pazienza, perché evidentemente le speranze che restano a lui e a Kamala Harris è che quei voti, gli cosiddetti absentee ballots, effettivamente possano fare la differenza. Suona anche un po' come wishful thinking, perché in realtà, li avrai visti sicuramente anche tu, i dati in realtà delle persone che hanno votato fisicamente raccontano un'America divisa, divisissima, perché le percentuali sono molto vicine, però comunque sono quasi tutti a favore di Trump, quindi insomma i prossimi giorni, io credo, saranno importanti. Sì. È stato detto addirittura fino a venerdì potremmo dover aspettare venerdì, e poi forse, come dicevi tu giustamente, ne parlavamo prima con Francesco Clementi, il costituzionalista Francesco Clementi, probabilmente si andrà per tribunali alla fine, finirà per tribunali, e speriamo che non finisca con la piazza e con le armi, perché qualche preoccupazione su questo fronte c'è sicuramente e si respira, no? Nei giorni scorsi ne abbiamo visto traccia. Sì, ci sono tantissime foto sui siti di questa, a parte la Casa Bianca blindata, di cui abbiamo parlato anche negli speciali di Radio 24, ma proprio anche tutte le vetrine di molti negozi, soprattutto a New York, proprio protette. Per ora tutto questo non c'è stato, e per fortuna. Però certo dipenderà anche molto dai toni che useranno Joe Biden e Donald Trump in queste prossime ore. Grazie alla nostra Giulia Crivelli per questo aggiornamento sui quotidiani americani. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo tra poco, come sempre, con Paolo Mieli, anche per un commento su questo voto, e poi sempre di elezioni americane parleremo. Diteci un po' anche come la pensate, che questi 4 anni di Donald Trump sono comunque una cesura nella storia americana, vedremo se si ripeteranno, tra poco.